Che cosa deve fare il consumatore in pratica da domani? Il consumatore deve presentarsi in punto vendita per ottenere appunto gli incentivi, dotato di documenti, quindi i soliti documenti, carta d'identità, codice fiscale e un attestato di avviamento alla discarica, quindi seguendo le normative AERES dei vecchi elettrodomestici, perché ricordo che l'incentivo viene erogato solo a fronte della sostituzione di un elettrodomestico non a risparmio energetico precedentemente posseduto. Sono molti, quindi, infatti, gli ascoltatori che ci chiedono proprio questo: bisogna rottamare un proprio elettrodomestico? Sì, è così, però serve un'autocertificazione, così? Sì, ecco, sull'autocertificazione non abbiamo ancora la certezza, nel senso che, salvo adesso variazioni nell'ultima mezz'ora, stiamo ancora, e devo dire che c'è una grande collaborazione in questo, però stiamo ancora discutendo con gli organismi competenti del Ministero per capire se l'autocertificazione può essere sostitutiva di invece della certificazione che normalmente fa il demolitore. Bernasconi, invece per gli acquirenti, scusi, per i negozianti c'è una lista alla quale ci si deve registrare, mi pare di capire. Sì. Negozianti, peraltro non solo quelli degli elettrodomestici, ma quelli di tutti i settori che prevedono incentivi al pubblico, ai consumatori direttamente, devono registrarsi presso un apposito call center delle Poste Italiane, che è stato delegato dal Ministero, ricevere un numero che identifica il punto vendita. Quando il consumatore arriverà in punto vendita per ottenere il suo incentivo, chiamando questo numero, identificandosi come punto vendita e successivamente fornendo i dati del consumatore, sarà possibile ottenere un'autorizzazione, un numero di autorizzazione all'incentivo.